Questo giorno di Simone Spezia. Fusione tra Luxottica e il colosso delle lenti Essilor, nasce un gigante dell'occhialeria da 140.000 dipendenti. Leonardo Del Vecchio sarà primo azionista e presidente esecutivo. Un'altra donna uccisa dal marito a Milano, lei lo aveva scoperto l'amante, un figlio segreto di 3 anni, 20 anni di violenze prima dell'assassinio. L'Italia rischia una procedura di infrazione per deficit eccessivo. L'Europa potrebbe chiederci una manovra correttiva da 3,4 miliardi. L'idea del Viminale è lavori socialmente utili per i richiedenti asilo in attesa dell'esito della procedura. In molti comuni però già avviene. Gradimento dei sindaci nella classifica del Sole 24 Ore, la più apprezzata è Chiara Appendino. Raggi, penultima, bene, Nardella e Pizzarotti. Juventus sconfitta e Roma che si riavvicina, questi verdetti del campionato in attesa del Milan in campo stasera contro il Torino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati all'Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque ci occupiamo dell'operazione finanziaria annunciata questa mattina, un'operazione finanziaria ma anche un'operazione industriale molto importante per un colosso italiano. Sentiamo. Luxottica, con vola nozze con la francese Essilor, nasce un gigante dell'occhialeria con più di 140.000 dipendenti e vendita in oltre 150 paesi. La fusione cross-border, la seconda della storia in Europa, dà vita a un colosso che avrà una capitalizzazione di 50 miliardi di euro. Leonardo Del Vecchio, patron della Luxottica, sarà l'azionista di maggioranza. Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, sarà infatti il primo azionista con una quota tra il 30 e il 31%. «Ho realizzato un sogno dopo 50 anni», dice Leonardo Del Vecchio. «Continueremo a investire in Italia e in Francia». L'operazione è frutto di anni di studio e il closing è previsto per il secondo semestre dell'anno. La borsa benedice la fusione. Luxottica è volata in Piazza Affari guadagnando il 14% ed Essilor a Parigi ha segnato un rialzo di oltre il 12%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla cronaca che ci racconta del nuovo omicidio di una donna da parte del marito a Milano. Ha confessato dopo un pressante interrogatorio alle 4 di stamani e ha fatto trovare l'arma del delitto, il 53enne Luigi Messina, fermato con l'accusa di aver ucciso la moglie Rosanna Belvisi di 50 anni con 23 coltellate nella loro casa a Milano in zona Lorenteggio. Il capo della squadra mobile di Milano, Lorenzo Bucossi. Inizialmente ha negato ogni addebito, forte del fatto che aveva occultato quelle che potevano essere le prove a suo carico, il coltello utilizzato per l'omicidio e gli abiti che aveva addosso al momento dell'omicidio, dimostrando una grande freddezza. Poi, a seguito di una lunghissima audizione, diciamo, della persona, si è deciso alla fine a confessare. Ex guardia giurata Luigi Messina, che aveva precedenti per oltraggio e resistenza, aveva chiamato i soccorsi alle 15 di ieri e aveva raccontato di aver trovato la moglie morta al ritorno da una passeggiata. Da alcuni controlli è risultato poi che circa 2 mesi fa la polizia era già intervenuta a casa della coppia per maltrattamenti, ma le violenze andavano avanti da oltre 20 anni. Già nel 95 la Belvisi era stata accoltellata alla schiena in casa, sempre dal marito. E su questo ennesimo caso di femminicidio è intervenuto anche il questore di Milano, Antonio De Jesu. Bisogna cercare il più possibile di consolidare una strategia di sensibilizzazione sulle donne che subiscono pressione all'interno del proprio nucleo familiare, nei rapporti malati con partner ed ex partner. Vedo qui a Milano numerosi interventi, quasi giornalieri, per maltrattamenti in famiglia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a Caserta un uomo, un ex guardia giurata, anche in questo caso, ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. È avvenuto in un appartamento a Santa Maria Capua Vetere. Si apre nelle prossime ore il World Economic Forum di Davos, al centro delle discussioni il tema delle disuguaglianze, a partire anche dal rapporto Oxfam diffuso oggi, nel quale si dice che 8 multimiliardari hanno una ricchezza netta superiore a metà della popolazione mondiale. Siamo in linea con l'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questo evidentemente, il tema delle disuguaglianze, ma anche il tema dell'impoverimento della classe media saranno al centro delle discussioni, no? Sì, esattamente. Qui tra le nevi di Davos, dove ci saranno 3.000 tra finanzieri, imprenditori, industriali e uomini politici, tra cui la presidente Xi Jinping cinese, per la prima volta a Davos, si parlerà di globalizzazione, in cui la Cina sarà appunto la sponsorizzerà questo sistema di globalizzazione mondiale, mentre il presidente eletto americano Donald Trump ha rinunciato a mandare per la prima volta una delegazione seppure transitoria, e quindi c'è un dialogo a distanza tra questi due colossi che uno appunto è a favore della globalizzazione e di continuare su questa strada, mentre gli Stati Uniti sono per il protezionismo e il ritorno quindi alle frontiere. L'altro tema è appunto quello dell'impoverimento della classe media a causa appunto della delocalizzazione di alcune industrie, soprattutto manifatturiere, a Messico oppure in Asia, e l'impoverimento appunto della classe media che sempre più frustrata guarda ai movimenti populisti. Quindi sarà un discorso molto interessante, e per la prima volta appunto si parlerà anche di diseguaglianze e gli effetti della globalizzazione, e infine di Europa sempre più divenuta, quindi le ricette anche per trovare e evitare altre Brexit nell'Unione Europea. Da Davos è tutto, a voi studio. E grazie dunque a Vittorio Darold per questo aggiornamento. Ebbene, si parlava di Trump e degli Stati Uniti, e fanno discutere in queste ore le dichiarazioni dello stesso Donald Trump rilasciate a un paio di quotidiani europei, nel quale Trump parla di una NATO obsoleta, non attrezzata per combattere il terrorismo islamico, i suoi membri si appoggiano sull'America, non pagano quello che dovrebbero pagare, dice Trump. Una risposta arriva dal Cremlino, da Mosca, che dice: la NATO è un anacronismo, siamo d'accordo con Trump. Interviene anche la Germania. La NATO non è obsoleta, dice da Berlino il portavoce del Ministero della Difesa, ma è di grande significato per l'Europa e per tutti. Siamo all'Europa, appunto, nei difficili rapporti tra Roma e Bruxelles sembra aprirsi un nuovo capitolo, e quello che riguarda la manovra che appunto l'Europa ci starebbe per chiedere. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Come spesso accade quando parliamo delle trattative tra Roma e Bruxelles, il condizionale è d'obbligo. Siamo infatti ancora in assenza di qualche cosa di ufficiale, ma nella sostanza i fatti sarebbero i seguenti. L'Unione Europea spingerebbe perché il governo Gentiloni fornisca nuovi dettagli sulla politica economica italiana. Punto di partenza, secondo Bruxelles, le previsioni d'autunno comunitarie sul nostro paese, secondo cui il bilancio 2017 non raggiungerebbe gli obiettivi prefissati. Da qui la necessità di coprire allora un buco di circa lo 0,2% del PIL, che si tradurrebbe in una manovra correttiva di oltre 3 miliardi di euro, oppure in assenza di interventi con una procedura sul deficit. La Commissione vorrebbe comunque dei chiarimenti sui motivi che porterebbero a questo scostamento tra bilancio ed obiettivi. È necessario ricordare che in tutto ciò non vi è allora nulla di nuovo, ma è l'esatta fotografia che da Bruxelles era stata fatta a novembre sull'Italia prima del referendum sulle riforme, che poi aveva congelato di fatto la situazione. Il ministro dell'economia Padoan starebbe lavorando da settimane ad un compromesso che possa andare bene all'Eurogruppo, ma che concili la necessità di una maggiore flessibilità sui conti per il nostro paese, alle prese, lo ricordiamo, con il caso banche e l'abbassamento del rating. È tutto a te, Simone. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Siamo al fronte dell'immigrazione, che vede un nuovo progetto lanciato dal Viminale. Sentiamo. Ancora 48 ore, poi il ministro dell'interno Marco Minniti svelerà la sua rivoluzione a 360 gradi rispetto alla linea perseguita finora dal precedente ministro Alfano sul tema immigrazione. Quello che trapela finora è che al Viminale stanno studiando una divisione netta fra i migranti irregolari e con precedenti penali, per i quali sarà prevista l'apertura di centri per l'espulsione. Piccoli, gestibili, al massimo 100 posti ciascuno, all'interno lavoreranno poliziotti e soldati, ma anche un garante che possa verificare il rispetto dei diritti degli stranieri. Niente quindi a che vedere con i CIE del 2007, che furono la vergogna d'Italia. Ma la vera novità di queste ore riguarda l'altra fetta ben distinta di migranti, cioè i migranti appena sbarcati in Italia che fanno richiesta di asilo. Al momento sono costretti ad attendere da 6 a 12 mesi i documenti in centri di accoglienza, dove non possono fare nulla, non possono lavorare. Il ministro ha pensato di inserire queste persone in un percorso di lavori socialmente utili, come avviene in Germania e sporadicamente anche in Italia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di pochi istanti fa che riguarda la querela tra il governo tedesco e Fiat Chrysler in merito alla questione delle emissioni. Il Ministero dei Trasporti tedesco chiede all'Europa che sia garantito il richiamo di Fiat 500, Doblò e Jeep Renegade, appunto per presunte violazioni sulle emissioni. Lo ha chiarito oggi il portavoce del Ministero in conferenza stampa a Berlino. La situazione del maltempo e soprattutto del freddo che sta colpendo in queste ore ore, in particolare l'Abruzzo. Siamo in linea con Mario Mazzocca, che è sottosegretario alla presidenza di regione con delega proprio alla protezione civile. Mazzocca, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, 100.000 utenze di elettricità staccate. Sì, l'ultimo report di Enel Distribuzione che abbiamo ricevuto alle 10.40 parlava di 42.000 utenze disalimentate, 26.000 in provincia di Chieti, 8.300 in provincia di Teramo e 7.600 in provincia di Pescara. Quindi parametrandole saremmo intorno alle 100.000 abitanti. 100.000 abitanti complessivamente. E per il resto la situazione com'è? Beh, la situazione permane critica e credo permarrà tale almeno per la giornata di oggi e domani, in quanto le previsioni meteo purtroppo si stanno verificando ormai, come accade da qualche tempo, giuste, e quindi avremo non tanto una recrudescenza ma una continuatività nelle precipitazioni che per intensità ci stanno portando diverse criticità, soprattutto sulla viabilità. Ci sono i codici rossi su tutte i tratti autostradali, sulla statale 5 Tiburtina Valeria, sulla statale 80, sulla attrezzato Chieti Pescara. E la 14 invece è stata riaperta nel vostro tratto, sì, era caduto un cavo, no? Esattamente, in realtà le autostrade sono state sempre aperte, ma permane comunque il codice rosso, ovvero il livello di alta allerta, ecco. La ringrazio, grazie a Mario Mazzocca, sottosegretario della Presidenza di Regione con delega alla Protezione Civile, Presidenza di Regione Abruzzo. Naturalmente la politica, il punto di oggi, che ci parla a quanto pare soprattutto di legge elettorale. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Ciao Simone, allora sì, intanto partiamo dal centrodestra che è in un subbuglio dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi di restare in politica e di un possibile nuovo patto del Nazareno con Matteo Renzi. A ribellarsi Matteo Salvini: io sono per fare le primarie, dice il leader della Lega, non è scritto nei 10 comandamenti che il candidato sia Berlusconi. Nessun ritardo per andare al voto, so solo che gli italiani hanno fretta, se Berlusconi preferisce Renzi e Merkel, meglio soli al voto. E in attesa del pronunciamento della Consulta il 24 gennaio proprio sulla legge elettorale, l'ex premier Matteo Renzi continua a sostenere il ballottaggio per evitare inciuci oppure il Mattarellum. Quindi Renzi predilige un sistema maggioritario, mentre Silvio Berlusconi preferirebbe il proporzionale, perché dice il leader di Forza Italia, se gli italiani non daranno più del 50% a un polo sarà inevitabile accordarsi e quindi le larghe intese. Roberto Fico per i 5 Stelle invece vuole andare al voto con la legge che uscirà dalla Consulta. A parte la legge elettorale, c'è poi stilata la classifica dei sindaci più amati: prima Chiara Appendino di Torino, penultima Virginia Raggi di Roma, ultima Maria Rita Rossa, sindaca PD di Alessandria. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e questa era la classifica del gradimento dei sindaci stilata ogni anno dal Sole 24 Ore. Ci torneremo più avanti nel corso del nostro giro per l'Italia e parleremo proprio con Maria Rita Rossa, appunto, che è l'ultima in classifica per gradimento. Siamo alla richiesta d'arresto per l'erede Samsung. Richiesta di arresto per il capo del maggiore conglomerato sudcoreano Samsung, con accuse di corruzione e altri reati. L'ha emessa la commissione indipendente che sta indagando su un vasto scandalo politico che sta travolgendo la presidente Park, finita sotto impeachment. JY Lee, vicepresidente e leader di fatto di Samsung in quanto erede designato di suo padre il patriarca, non è per ora finito in stato di detenzione, ma sulla richiesta di arresto si pronuncerà dopodomani il Tribunale Centrale di Seoul. Tra giovedì e venerdì era già stato interrogato per ben 22 ore. Lee è accusato di aver finanziato per un totale di 36 milioni di dollari entità facenti capo alla persona al centro dello scandalo politico, una controversa amica della presidente, e di averlo fatto in cambio di favori politici. Samsung ha ammesso le donazioni, ma nega di averlo fatto per ottenere vantaggi illegali. Secondo l'accusa ci sono molti elementi per suffragare l'ipotesi che la presidente e l'amica abbiano condiviso i proventi illeciti delle loro pressioni sulle grandi aziende del paese. E intanto il titolo di Samsung Electronics ha reagito alla notizia con un ribasso del 2,2%. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Siamo al punto calcistico di oggi, di questo lunedì, che ci parla soprattutto di una Juventus che viene sconfitta, di una Roma che si riavvicina, in attesa tra l'altro del Milan questa sera. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Simone. Sì, hai centrato un po' il tema di giornata, in attesa del Milan che questa sera sarà impegnato nella certo non facile trasferta a Torino contro il Granata. Fa notizia la sconfitta della Juventus a Firenze, la quarta sconfitta del campionato su 20 giornate. Juventus che non ha mai pareggiato, non esistono le mezze misure, ma soprattutto fa discutere il modo, perché è sembrata una Juventus imbalsita, impacciata, che ha perso non solo i tre punti e allora le inseguitrici si sono fatte tutte sotto, la Roma virtualmente è staccata nella realtà di un punto, ma sì, è anche un se punto la Juve virtuale, manca una partita, certo, no? La Juventus deve recuperare la sfida col Crotone, ma il modo, ecco, è quello che fa discutere, perché sembra una Juventus che invecchiata improvvisamente e lontana dalle certezze che appena pochi mesi fa, un anno fa, le avevano dato modo di iniziare una clamorosa rimonta dopo un altrettanto, anzi ancora più difficile inizio di stagione. Ecco. Forse un po' di stanchezza, Dario? Sì, ma anche no. Devo dire che il problema della Juventus, almeno questo... il mio piccolo editoriale che consegno a effetto giorno nasce dal mercato, un mercato che è stato più un mercato politico che tecnico. Si è voluto prendere il centravanti più forte del campionato e anche uno dei migliori giocatori della squadra seconda in classifica, ma erano giocatori funzionali al progetto tecnico. Finora la risposta rimane ancora molto sospesa. E forse da qui che nasce un po' questa distanza che ora vede da un lato Allegri e dall'altro la società. Anche perché, vado a chiudere, non si può sempre superare una crisi facendo esclusivamente ricorso alla grinta o ai cosiddetti attributi, perché l'atleta ha bisogno sia di quello stimolo che delle risposte tecniche. In questo momento sono sicuro che nello spogliatoio della Juve gli attributi non mancano, ma mancano le risposte tecniche, quindi c'è tanto lavoro da fare per Allegri e non credo che abbia tutti gli uomini giusti per farlo. Vedremo dunque che cosa succederà nel proseguo di questo campionato. Intanto grazie al nostro Dario Ricci e ovviamente di calcio torneremo a parlare a partire dalle 14 in tutti i convocati. Traffico, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Come si diceva, iniziamo da questa classifica dei sindaci che vede in fondo alla classifica la sindaca di Alessandria, Maria Rita Rossa, tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della fusione tra Luxottica, il colosso delle lenti, e Essilor. Abbiamo parlato di un'altra volta, una donna uccisa dal suo marito a Milano. Ci sono state 20 anni di violenze prima dell'assassinio. Il questore tra l'altro ha lanciato un appello alle donne perché denuncino l'Italia. Abbiamo parlato dell'Italia, dei rapporti con Bruxelles, il rischio di una procedura di infrazione, dell'idea del Viminale sulla quale torneremo più avanti, lavori socialmente utili per i richiedenti asilo. In apertura del nostro giro per l'Italia che inizia adesso, però andiamo a parlare di questa classifica del Sole 24 Ore. La classifica sul gradimento dei sindaci da parte evidentemente dei loro cittadini. In cima alla classifica Chiara Appendino, sindaco di Torino del Movimento 5 Stelle, che è al 62% contro il 54,6% del giorno dell'elezione. Da dire che abbiamo cercato Chiara Appendino, eravamo in forse fino alle 13:05, avremmo dovuto intervistarla, dopodiché aveva un impegno, è andata a visitare gli stabilimenti della Fiat Chrysler insieme a Chiamparino e quindi l'intervista è saltata. Lo dico perché insomma è una sindaca del Movimento 5 Stelle. Dalla parte opposta e in fondo alla classifica c'è una sindaca del Partito Democratico, Maria Rita Rossa, sindaco di Alessandria, benvenuta, bentornata ai nostri Buongiorno. Microfoni anzi. Buongiorno. Eccoci qua, allora lo dico affinché si eviti poi i soliti sms degli ascoltatori che dicono ma come intervistate quella del PD e non quella del Movimento 5 Stelle. No, è semplicemente una questione questione tecnico-pratica. Maria Rita Rossa, dunque, in fondo alla classifica, lei è stata eletta nel 2012 alla guida di un comune in dissesto finanziario, con un gradimento del 67,9% e adesso è al 42%. Il 67,9% era il gradimento raggiunto al ballottaggio. Sì. In realtà, se volessimo come dire, fare un'analisi della correttezza scientifica, bisognerebbe vedere per base omogenea elettorale il dato del primo turno. Io arrivo al ballottaggio col 39%. Quindi in realtà questo 42% di gradimento oggi... Vabbè, però fatto sta Rossa, lei è là in fondo, Sì, certo. Io la prendo valutando il sondaggio per quello che è. Non credo che scientificamente mettere insieme sindaci eletti al primo turno, sindaci eletti al secondo, sia corretto, dopodiché il 42 è il gradimento che io oggi, in una situazione in cui non ci sono ancora i concorrenti, e quindi parto da quello. Perché lei si vota quest'anno, no? Si vota quest'anno per il nostro comune. Il governo stabilirà naturalmente la data delle elezioni. Dopodiché io ho affrontato una situazione molto complicata e difficile, quella di un comune in dissesto, le scelte impopolari naturalmente non pagano, necessarie ma impopolari, il risultato di questo ultimo posto è però come dire, la base per costruire il futuro della mia città, peraltro sindaci che in quella classifica del Sole 24 Ore lei sta dicendo... i vertici non sono mai stati confermati, perché il sindaco... L'ex sindaco di Pavia, Cattaneo, è stato il sindaco più amato d'Italia dopo sei mesi andando alle elezioni aperte. Quindi lei dice non è necessariamente. Mio predecessore aveva fatto anche i manifesti come sindaco più amato del nord Italia ed era il settimo, l'ottavo posto, e poi ha perso alle elezioni. Senta, Rossa, sono stati ai vertici della classifica del Sole 24 Ore, hanno perso le elezioni. Quindi non è necessariamente di buon auspicio. Non è necessariamente di buon auspicio, capisco che benissimo. È stata serena e poi non ha trovato. Serena per niente. Mi sta dicendo, lei paga la politica di austerity che ha dovuto fare, ci sta dicendo. Non c'è dubbio, ma io ho deciso di anteporre la responsabilità nei confronti della mia comunità facendo delle scelte necessarie per darle un futuro. Quindi io Rossa, Rossa, secondo lei quali sono i provvedimenti? Ho tagliato 26 milioni di euro di spesa corrente, ho tolto tutte le liberalità, i contributi che solitamente vengono dati a pioggia a tutte le reti dell'associazionismo sono stati totalmente tagliati in questi anni, ho tolto molti privilegi, ho risanato il bilancio contenendo le spese anche sui contratti di servizio per forniture e quant'altro. È chiaro che ho dovuto limitare gli investimenti, abbiamo cominciato a investire dallo scorso anno e abbiamo fatto anche opere in città, manutenzioni, ma per i primi 3-4 anni non abbiamo potuto fare nulla per garantire il posto di lavoro a chi rischiava di perderlo naturalmente nell'ambito del sistema pubblico. La revisione di tutto il sistema, diciamo così, dell'erogazione dei servizi pubblici, è chiaro che questo procura una situazione nella quale non ci sono diciamo consensi. Le faccio un esempio concreto così anche i radioascoltatori possono diciamo avere un metro. Un tempo il servizio diciamo di trasporto era garantito a tutti gli ultra 65enni, a tutti coloro che erano iscritti a qualche associazione di volontariato gratuitamente, quindi c'erano delle gratuità che avevano delle liste lunghe. È chiaro che quella roba lì l'abbiamo dovuta togliere e questo non ci porta a consenso. Faccio questo esempio per dire... Tra i tanti, dice lei, va bene. Certo, tra i tanti. Allora, vedremo cosa succederà anche con le elezioni. Grazie intanto a Maria Rita Rossa, sindaco di Alessandria, per essere stata con noi. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pausa per la borsa come sempre, ci ritroviamo subito dopo e il primo tema che affronteremo è questo tema dei lavori socialmente utili per i richiedenti asilo. Un'ipotesi del Viminale, ma in molti comuni già lo fanno, in realtà andremo in uno di questi, anzi, in uno dei primi. Una pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Per lo scandalo emissioni, la richiesta di Berlino a Fiat Chrysler è di richiamare 500 Doblò e Jeep Renegade, polemiche anche con il governo italiano. La fusione tra Luxottica e il colosso delle lenti Essilor, nasce un gigante dell'occhialeria da 140.000 dipendenti. Un'altra donna uccisa dal marito a Milano, lei aveva scoperto l'amante e un figlio segreto di 3 anni, 20 anni di violenze prima dell'assassinio. L'idea del Viminale, lavori socialmente utili per i richiedenti asilo in attesa dell'esito della procedura alla borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia ci porta adesso a Sarzana. Siamo in linea con il sindaco Alessio Cavarra. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Allora, abbiamo detto che c'è questa ipotesi del Viminale, poi il piano verrà svelato tra 48 ore dal ministro Minniti, che comprende varie cose, lo abbiamo raccontato, la riapertura dei CIE, dei centri di identificazione ed espulsione, molte altre cose, tra cui la possibilità di far fare lavori socialmente utili ai richiedenti asilo in attesa del completamento della procedura. In realtà, Cavarra, voi lo fate già dal 2014, no? Sì, è in realtà già dal 2014 nella nostra città, perché abbiamo deciso, appunto, una città come la nostra, che per la sua storia e per il suo essere città solidale non poteva sottrarsi a questo impegno. Lo abbiamo, appunto, abbiamo attuato questo progetto che abbiamo definito ponderato, nel senso che noi accettiamo molto volentieri questi ragazzi sfortunati, però abbiamo chiesto in cambio rispetto di impegni, di regole. Le abbiamo messo nero su bianco con un protocollo d'intesa fatto con la Caritas, e devo dire che sta funzionando molto bene. Sta funzionando bene, quindi sono sostanzialmente 3 anni che andate avanti. Che cosa fanno questi richiedenti asilo? Questi ragazzi hanno come obiettivo quello di riqualificare, tenere pulito, tagliare l'erba di alcune aree verdi della nostra città. Sono praticamente 12 persone, fanno dei turni, quindi 12 persone al giorno, che organizzano la pulizia e la manutenzione di queste aree verdi. Lei lo sa, Cavarra, qual è l'obiezione classica? Qualcuno le dirà, ma scusi, invece di, come dire, di spendere denaro per il mantenimento di queste persone, perché non facciamo lavorare degli italiani in questo modo? Ma noi non tiriamo fuori nemmeno un centesimo. Loro lo fanno in assoluto volontariato, visto e considerato che questi ragazzi vengono ospitati dalla Caritas, in cambio appunto hanno capito che la nostra città ospitale è stata disponibile ad accoglierli, e in cambio in assoluto volontariato stanno organizzando queste giornate di pulizia e di manutenzione. Tra l'altro tutti muniti di apposito attestato per l'utilizzo, appunto, di cespugliatori, nel senso che la Caritas ha organizzato, prima appunto di coinvolgerli in questo tipo di lavoro, li ha preparati, gli ha fatto fare un corso. E quindi ora loro sanno utilizzare molto bene i macchinari per la pulizia delle aree verdi. Quindi per noi comune, anzi, non abbiamo speso nemmeno un centesimo, ma ci stiamo risparmiando, perché queste aree verdi erano, diciamo, di competenza nostra nella manutenzione, e noi abbiamo risparmiato dei soldi perché non abbiamo utilizzato ditte esterne, ma appunto attraverso il loro contributo volontaristico. La ringrazio, grazie Alessio Cavarra, sindaco del comune di Sarzana. A chiudere abbiamo un paio di minuti con Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, uno dei comuni più colpiti dal terremoto del 25 agosto scorso. Sindaco, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. C'è stata una manifestazione di protesta, per noi dal 25 agosto non è cambiato nulla, dicono gli abitanti. Ma questo non è, diciamo, rispondente alla realtà, perché comunque qui di attività ne vengono fatte tante a 360 gradi. Purtroppo noi abbiamo avuto il 30 ottobre una seconda scossa che comunque ha devastato completamente il patrimonio immobiliare, fortunatamente non creando nuove vittime, però ha fatto sì che tutto ciò che è stato fatto in precedenza è stato dovuto riprendere tutto da capo, e specie con le proprie organizzazioni degli uffici. Noi stavamo alloggiati in una struttura prefabbricata al ridosso di un'attività produttiva, e dopo il 30 ottobre si che è resa inagibile, quindi anche abbiamo dovuto spostare tutti gli uffici, ricollocarci in una tenda per oltre un mese e lavorare in condizioni, diciamo, proprio non confortevoli, perché qui comunque l'inverno è, diciamo, proprio entrato in pieno. Abbiamo oggi qui 3 metri di neve, siamo stati sotto zero. Quanta neve avete? Adesso 30 centimetri. Solo 30 centimetri. E continua a nevicare. Brevemente, Petrucci, unità abitative di quelle provvisorie sono arrivate oppure no? Ma le unità abitative stanno aspettando la gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. I fabbisogni sono stati già comunicati tutti insieme all'acquisizione delle aree già dal 30 novembre, quindi stiamo... Mi dà dei tempi, secondo lei? Mi dà dei tempi? Secondo lei quando inizieranno a trasferirsi le persone? Ecco, i lavori comunque procedono a rilento per una serie di circostanze sfavorevoli a svolgimento di questo tipo di attività, dovute soprattutto anche, ecco, come dicevo prima, all'inverno. Consideri che qui alle 16.30 già è notte, quindi... E ancora è notte fino alle 7.30-8 di mattina. E quindi è difficile dirlo, in sostanza, mi dice lei, insomma, in questo no, momento. Le attività ne stiamo appunto svolgendo tante, dalla variante al piano regolatore per la ricostruzione della scuola, all'elargizione comunque dei contributi di autonoma sistemazione. La delocalizzazione delle attività produttive, certo, e commerciali. Allora, purtroppo il sisma non è solamente lo sgombero delle macerie. È molto altro, e lo sappiamo. Allora io la ringrazio, sindaco, dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli. Torneremo nelle zone terremotate, non vi preoccupate. Adesso ci fermiamo, c'è Platero, facciamo così. Platero, poi ci risentiamo per i saluti e poi ci sarà il traffico e autotrasporti come sempre.